sentirti accanto mentre dormi distesa qui. Se rugiara sui petali, vorrei restare qui, per sempre qui. Tienimi su di te, puoi renderlo facile. Lascia fuori tutto il mondo dalle tue lenzuola. Lascia fuori tutto il mondo, non dire una parola. Vorrei vivere qui, rinchiuso fuori dal mondo, rinchiuso fuori da me, che non mi so ascoltare o trovare. Tu lasciami qui, sospeso oltre il tempo, a catturare le stelle più lontane, e ne farò tesoro per te. Dicono che non sia facile riuscire a credere nelle favole, e guardo le nuvole passare su di noi. Tienimi qui con te, puoi renderlo facile. Lascia fuori tutto il mondo dalle tue lenzuola. Lascia fuori tutto il mondo, non dire una parola. Vorrei vivere qui, rinchiuso fuori dal mondo, rinchiuso fuori da me, che non mi so ascoltare o trovare. Tu lasciami qui, sospeso oltre il tempo, a catturare le stelle più lontane, e ne farò tesoro per te, per te. Vorrei vivere qui, rinchiuso fuori dal mondo, rinchiuso fuori da me, che non mi so ascoltare o trovare. Tu lasciami qui, oltre il tempo, a catturare le stelle più lontane.